cresce come la primavera dentro. Le nuvole si muovono lente sopra di me, promesse sospese nel blu, sto seguendo ogni alba. Aspettando il sole, contando ogni stella, sì sì, conto ogni stella finché non arrivi, il mio cuore continua a cantare mai finito. Aspettando, aspettando, sto aspettando, aspettando il sole, aspettando il sole, i passi che chiamano sui marciapiedi, il tuo nome in ogni canzone. I momenti danzano come petali, dove i giorni si allungano, i sogni scrivono il tuo ritorno, in colori luminosi e nuovi, tengo ogni mattina dorata, come una tua promessa, promessa da te. Oh sì, se la notte si fa pesante e la speranza sembra lontana via, ti troverò all'alba, dove i desideri non si perdono mai, non si perdono mai, oh no. Sto aspettando il sole, contando ogni stella, sì sì, contando ogni stella finché non arrivi, il mio cuore continua a cantare mai finito. Sto aspettando, aspettando, sto aspettando, aspettando il sole, aspettando il sole, aspettando il sole.